Focus Economia di Sebastiano Barisoni. E 8 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. In attesa della riunione, del vertice del governo tedesco, le ultime agenzie lo stimano intorno alle 20:30-21, quindi un incontro politico che si terrà, secondo una tradizione più italiana, forse che tedesca, nella serata. Dicevo, in attesa di sapere che cosa uscirà dal vertice tedesco. Sono presenti tra l'altro in Germania anche tutti i rappresentanti dei tre soggetti che hanno avanzato un'offerta per Opel, e quindi Fiat, Magna e chiaramente il fondo Ripplewood. In attesa di questo non ci dovrebbero essere, il condizionale d'obbligo, però grosse novità da qui alla serata e forse nemmeno domani mattina, nel senso che, stando a quello che si capisce dalla Germania, probabilmente il governo tedesco annuncerà forse una iniziale linea di credito intanto per tenere in vita la Opel da 1,5 miliardi. Dovrebbe poter dire quali soggetti andranno avanti nell'offerta. È probabile, ma non certo, che indichi il nome di due soggetti escludendone un terzo, ma è abbastanza certo che non arriverà nessuna indicazione sulla scelta definitiva. Da quello che si è capito, il governo tedesco punta ad avere offerte migliorative. Tra l'altro, proprio in questi minuti si è aperta la finestra, la possibilità per i tre offerenti di migliorare ulteriormente la proposta per acquisire Opel, ma è chiaro che il governo tedesco punta, in una trattativa che non dovrebbe appunto concludersi con stasera, ad avere offerte migliori sia sul fronte occupazionale, ma soprattutto sul fronte anche delle garanzie economiche. I vari soggetti hanno chiesto garanzie tra i 5 e i 7 miliardi di euro al governo tedesco, che poi verrebbero restituite, però intanto come prestito ponte, chiamiamolo così, per rimettere a posto, in sesto, la Opel. Quindi, se tutto va bene, nella migliore delle ipotesi dovremmo avere tra stanotte e domani mattina i nomi di chi andrà avanti con questa gara. Non è nemmeno escluso però che il governo tedesco non faccia una nota così chiara, dica semplicemente che vuole avere ulteriori dettagli o offerte ancora migliori rispetto a quelle arrivate. Fronte Opel quindi è del tutto interlocutorio. Non è interlocutorio invece il dato di oggi sulla produzione industriale, la stima di Confindustria e la fiducia dei consumatori italiani. Fiducia che è stabile a maggio, e già questo è un dato buono di questi tempi, cioè non è in caduta l'indicatore di ISAE della fiducia dei consumatori, e tra l'altro sempre l'ISAE segnala un miglioramento di quello che è l'indicatore relativo al quadro economico generale. Passa da 74 punti a 77 punti. Invariati invece gli indicatori relativi al quadro personale. Cioè, la domanda è: come vede lei l'economia in generale? Queste risposte sono migliorate come giudizio. Alla domanda invece come vede la sua situazione personale, l'indicatore è stabile a, per la precisione, 119 punti. L'Istat ha fornito un dato invece sull'occupazione delle grandi imprese, che è in calo, ma soprattutto sulla cassa integrazione nelle grandi imprese. C'è stato un vero e proprio boom a marzo, un 370% in più. Però dal centro studi Confindustria arriva un segnale di stabilizzazione, quantomeno nella produzione industriale italiana, che secondo la Confindustria a maggio dovrebbe segnare un meno 1% su aprile, e comunque stabilizzarsi su quel livello. Siamo tutti d'accordo, lo dico anche a chi scrive, che sono sempre situazioni difficili, ma perlomeno quello a cui tutti stanno guardando è il capire se la situazione si è fermata, se la caduta si è fermata. Ne parleremo in apertura, anche perché nel frattempo ne arrivano notizie non belle dal distretto tessile di Prato, nel senso che dopo indicatori sulla produzione industriale in miglioramento, adesso tutto un insieme di indicatori indiretti, cioè quanto gas si consuma, le spese per energia elettrica, vanno verso un peggioramento della situazione in un distretto che, lo dico subito, quello pratese, già viveva una sua difficoltà precedente la crisi finanziaria, adesso economica, dovuta al settore tessile, alla concorrenza cinese, con numerose acquisizioni da parte di imprenditori cinesi di aziende in precedenza in mano a imprenditori pratesi. Poi parleremo delle banche italiane, non solo perché, come ieri vi abbiamo fatto ascoltare, il ministro Tremonti è tornato a criticare le banche che aumentano la raccolta ma fanno finanza fine a se stessa, non la impiegano questa raccolta nei confronti delle imprese, e quindi quello sarà un tema, ma anche perché oggi l'agenzia di rating Moody's ha abbassato le prospettive sull'intero settore bancario italiano, portandole da stabili a negative. Va anche detto che in altri paesi questo è già successo prima, penso alla Spagna, alla Gran Bretagna, alla Germania, però avremo modo di parlare con il responsabile di Moody's per le banche italiane alle 18.10 e capire come mai il peggioramento di quello che si chiama in gergo l'outlook, ossia le prospettive future per il settore bancario italiano. Questa notizia ha influenzato, ma non tantissimo, i titoli bancari a Piazza Affari, quindi passiamo alla borsa. La borsa è invariata in questo momento sia sul MIBTER che sull'S&P MIB. Meglio fa Parigi, più 0,7, Francoforte più 0,3 e Londra più 0,1%, e l'America che perde invece uno 0,3% sul Dow Jones. Dicevo, non tutte le banche sono oggi in flessione. Lo è il Monte dei Paschi che perde lo 0,80, lo è UbiBank che perde l'1,5, sempre sul settore finanziario anche Mediolanum perde l'1,5% e Intesa San Paolo perde lo 0,4%. Va invece però più che bene Fondiaria SAI più 4,9, ma anche la Popolare di Milano più 4,2%. Positivo anche il Banco Popolare più 1,2% e UniCredit e Unipol e Mediobanca che guadagnano mezzo punto percentuale. Tra gli altri titoli segnalo Parmalat più 4,3, Bulgari più 2,1% ed Enel più 1,6 come Autogrill. Ultima cifra, come sempre, quella per i vostri SMS. Il numero è 349-238-6666. Le altre notizie in breve. Petrolio, già lo chiedete e ve lo diamo. Il petrolio è netto a ripresa, è già a $63 al barile oggi a New York, un 1% in più. E questo oggi non si lega, devo dire, all'andamento del rapporto euro-dollaro, perché l'euro è a 1,38,8 sul dollaro, quindi non è giustificabile con un indebolimento del dollaro, diciamola così. Ancora su Fiat Opel, confermo che prima delle 20:30-21 il governo tedesco, non, la discussione politica, come la chiamano, non inizierà. E ancora che dalla Germania l'unica indicazione arrivata oggi, poco fa, meno di un'ora fa, da parte del ministro ormai famoso Gutenberg, il ministro dell'economia, è che tutti i piani vanno migliorati, e tra l'altro anche il ministro delle finanze Steinbrück ha detto che finora non c'è nessun favorito. Poi tralasciamo altre dichiarazioni, perché insomma, c'è la campagna politica in corso in Germania, si vota a settembre, e allora che il governatore dell'Assia, Roland Koch, se ne esca con dichiarazioni così un po' prevenute sull'Italia, dicendo la Fiat è una black box, una scatola nera per tutte le parti coinvolte nell'operazione, neanche un centesimo dei fondi tedeschi dovrebbe finire lì, appunto, perché è una scatola nera e finirebbe in Italia. Sono dichiarazioni un po' così che lasciano il tempo che trovano, se permettete. Invece, per quello che riguarda notizie più serie, in Gran Bretagna il governo britannico sta ipotizzando aiuti di Stato diretti a Vauxhall, che è l'altro marchio assieme a Saab e Opel del gruppo General Motors in Europa. Nel frattempo General Motors ha trasferito tutte le sue attività europee alla controller tedesca Adam Opel General Motors, una mossa, diciamo, anche tecnica, che serve a facilitare poi l'accordo con il futuro investitore nelle società. Una buona notizia sul settore auto arriva invece dal Giappone, dove la nuova serie della Prius che come molti di voi sanno è quella macchina che va anche la parte elettrica, cioè frenando con una dinamo si ricarica, ha avuto un successo devo dire notevole anche in Italia, soprattutto tra i taxi qui a Milano, ma non solo. Ebbene, la nuova serie della Prius ha avuto una tale domanda di richieste e di prenotazioni che la Toyota ha annunciato per la prima volta in 6 mesi che aumenterà la produzione e ripristinerà lo straordinario per gli operai in 2 stabilimenti nazionali. La Prius resta l'auto ibrida, come si chiamano in gergo, più venduta al mondo. Era l'ultima notizia di quelle in breve. Come annunciato, partiamo dai dati italiani, dalla situazione che contrariamente a chi vede o tutto nero o tutto bianco, la situazione va monitorata giorno per giorno, settimana per settimana, per capire esattamente, al di là di tanta retorica anche politica, quanto diciamo, si sia arrivati al fondo di questa crisi dal punto di vista economico e come e quali segnali arrivino di una lenta, ma seppur lenta, ripartenza. Eh sì, perché se l'ISAE, come ricordavo, segnala una fiducia dei consumatori italiani stabile, e già questo diciamo, va preso come un elemento più positivo che negativo, cioè un bicchiere più mezzo pieno che mezzo vuoto, e il quadro economico generale è addirittura in miglioramento, come gli italiani vedono il quadro economico generale. C'è l'Istat che fotografa un boom a marzo, però questo è il dato di marzo, mentre l'ISAE si rivolge a maggio. Un boom, dicevo, della cassa integrazione delle grandi imprese, più 370%, e c'è il Centro Studi Confindustria che individua e stima una produzione industriale nel mese di maggio in flessione, per carità, ma una flessione diciamo che dovrebbe far pensare a una stabilizzazione del livello a cui si è attestata la produzione industriale. E allora salutiamo, come sempre facciamo in questi casi quando le previsioni arrivano dal Centro Studi Confindustria, il direttore del Centro Studi Confindustria, Luca Paolazzi. Buonasera. Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Allora, Luca Paolazzi, come tutto il team di Confindustria, ha contribuito chiaramente a molti dei punti emersi nella relazione della settimana scorsa che abbiamo fatto sentire in diretta della Presidente Emma Marcegaglia. Quindi il quadro economico complessivo, secondo la visione di Confindustria, già lo conosciamo. Vorrei capire, non riesco a darti del lei perché sei stato un collega, sei tuttora il nostro ospite molte volte, vorrei capire, Luca, perché dite che una flessione dell'1% nella produzione industriale a maggio rispetto ad aprile è una stabilizzazione? Beh, perché viene dopo appunto un aprile che rimbalza dell'1,3%, e se guardiamo il profilo della produzione industriale osserviamo una fortissima caduta da settembre in poi, ma anche che era cominciata in realtà in precedenza perché il punto di massimo è stato toccato nell'aprile dell'anno scorso. E poi dopodiché appunto questo andamento ondeggiante negli ultimi 2 mesi, ovviamente questa è la nostra indagine, sono frutti della nostra indagine, osserveremo poi i dati Istat quando verranno rilasciati se confermeranno questi segnali appunto di stabilizzazione, di oscillazione su una sorta di pavimento, ecco. Chiaramente questo non significa che siamo felici di questa situazione, nel senso che il livello di attività, il pavimento su cui ci stiamo stabilizzando è veramente molto molto basso, siamo fondamentalmente intorno a quota 81-82, un anno fa eravamo vicini a quota 108, quindi diciamo siamo veramente molto molto in basso. Sì, immaginiamo, lo dico a chi scrive, non so, i piani di un edificio, un ascensore, tu inizi a scendere, poi cerchi di capire a che piano ti fermerai, visto che tu parlavi di pavimento, uno può fermarsi, immaginiamo anche che si vada sottoterra, perché visto che il PIL avrà segno meno, puoi fermarti al meno 1, al meno 2, al meno 3, insomma, la sensazione, se ho ben capito Luca Paolazzi, è che si stia arrivando al piano sempre basso, sempre sottoterra, ma al piano in cui dovrebbe fermarsi questo continuo ascensore in discesa. Sì, se osserviamo poi altri indicatori come le aspettative di produzione tre mesi presso le imprese manifatturiere, che è un'indagine che conduce l'ISAE, osserviamo segnali di risalita nei prossimi mesi. Non è qualcosa che riguarda appunto l'immediato, ma riguarda l'estate. L'estate, diciamo, è quella che dovrebbe riportare un po' di recupero di questa attività. Cruciale è sapere quanto veloce sarà questo recupero per capire se torneremo rapidamente a dei livelli tali da consentire una tenuta delle imprese e del tessuto manifatturiero oppure no, fondamentalmente. E lo dico a chi scrive, parleremo di un caso specifico, il distretto di Prato, che invece ha avuto segnali indiretti oggi diffusi di un calo della produzione come consumo di gas e energia, con il presidente dell'industriale di Prato tra pochi minuti. Vorrei concludere invece la parte di scenario, Luca Paolazzi, con un'altra riflessione. Dal vertice di fine settimana scorsa a Roma del Financial Stability Forum, i banchieri centrali, e anche dal vertice Aspen di Venezia, è sembrata emergere una preoccupazione che ci ha lasciato un po' perplessi. E cioè, si è detto adesso attenzione, perché c'è il rischio con i tassi così bassi, con le banche, insomma, che la borsa che ha ripreso a salire, c'è il rischio di una bolla. Allora, io mi rendo conto che si navighi sempre tra Scilla e Cariddi, però io ho capito che i tassi stanno bassi perché l'economia è in ginocchio, diciamolo tutta, e comunque deve ripartire, che alle banche sto fornito una garanzia valutabile intorno ai 5.000-6.000 miliardi di dollari tra garanzie e aiuti in tutto il mondo, perché c'era un rischio di collasso del sistema. Ora, sentir parlare di bolla finanziaria mi lascia un po' perplesso, ma sono io che non capisco, e soprattutto sei d'accordo con il fatto che questo possa voler dire un ritorno a breve dell'inflazione? Allora, la moneta è qualcosa che viene creata nella misura in cui viene domandata. Il fatto che poi la moneta si trasformi in spesa e quindi pressione della domanda sull'offerta è un altro paio di maniche. Nella fase attuale esiste nel mondo una domanda di liquidità di moneta altissima che viene assorbita nei portafogli, l'abbiamo visto anche peraltro nelle aste sui titoli di Stato a brevissimo termine in Italia, sui BOT. Questo vuol dire fondamentalmente che tutta la moneta che viene creata si congela in questi portafogli, non viene spesa. Quindi non c'è pressione della domanda sull'offerta, osserverei, magari ci fosse, perché vorrebbe dire che risaliremmo molto rapidamente sui livelli di attività precedente, e a quel punto la stessa domanda di moneta verrebbe meno, perché una parte di questa moneta si trasformerebbe in domanda di obbligazioni, di azioni, quindi cambierebbe la forma dei portafogli, sarebbe una rivalutazione di una serie di asset che oggi pesano nei bilanci delle banche e impediscono di creare credito, e a quel punto, se ciò succedesse, sarebbe molto facile per le banche centrali congelare, ridurre, drenare liquidità nel sistema. Temo, diciamo, che questo non succeda rapidamente, temo invece che appunto la capacità produttiva inutilizzata, cioè quello che noi potremmo produrre ma non produciamo, rimanga elevato a lungo. Secondo le stime che possono essere fatte in base ai dati OCSE o in base ai dati di Fondo Monetario Internazionale, questa capacità produttiva inutilizzata è circa l'8-9% del PIL nell'anno prossimo, e quindi una misura molto elevata. Aggiungo che la componente principale della dinamica dei prezzi è la dinamica del costo del lavoro. Non credo, diciamo, che nelle condizioni attuali di debolezza, purtroppo, e sottolineo tre volte purtroppo, del mercato del lavoro dovuto alla crisi, e ci sia, diciamo, la possibilità di una crescita delle retribuzioni né nei paesi industriali né nei paesi emergenti, dove invece il costo del lavoro peraltro è molto basso. Quindi, se ho ben capito, però correggimi, da un lato, insomma, l'inflazione, lo dico anche a chi scrive, sale, posso dire, per due elementi: o perché aumentano i costi, il costo del lavoro, e quindi aumentano i prezzi dei beni, la dico meno un po' sommaria, o perché c'è così tanta liquidità in giro che avere denaro non costa niente, allora tu tendi a spenderlo e si creano pressioni sui prezzi anche in questo caso, no? la cosiddetta massa con una capacità produttiva pienamente utilizzata. Esatto, con una capacità produttiva utilizzata, se c'è troppa massa monetaria, come si dice in gergo, in giro, è troppo facile avere denaro e quindi tu lo spendi troppo facilmente e crei pressione sui prezzi e i prezzi aumentano. Tu ci stai dicendo che nel primo caso, cioè il costo del lavoro, con la cassa integrazione e la disoccupazione che attraversa l'Europa, è difficile che aumenti purtroppo per gli operai, per i dipendenti, che aumenti il costo del lavoro, casomai contrario. Né sul fronte della liquidità, perché tutta questa massa di soldi che sta messa sul mercato dalle banche, dagli stati, dalle banche centrali, dagli stati, in realtà resta dentro le banche, non viene riutilizzata perché, se ho ben capito Luca, serve alle banche per rimettersi in sesto, quindi non c'è la liquidità che circola e uno non sa come spendere questi soldi, per cui inizia a pagare i beni di più e parte una dinamica inflattiva. Per questi due motivi tu escludi che a breve ci possa essere una pressione sui prezzi, cioè un'inflazione in aumento? Esattamente, sono queste ragioni. Certo, si può giocare, cioè può essere anche un elemento semplicemente di aspettative, quindi un'idea del fatto che i prezzi, cioè una convinzione che i prezzi salgono e quindi i prezzi si mettono in moto per questo. Però attenzione, anche in passato, e mi riferisco all'inflazione degli anni 70, dagli anni 80, le aspettative non si generavano mai da sole, c'è sempre stato, diciamo, una spinta dal lato dei costi. Questa spinta è stata, diciamo, da un lato quella di materie prime importate, dall'altro soprattutto l'eco che questo aumento dei prezzi di materie prime importate aveva sulla dinamica del costo del lavoro. Questo vale in Italia, nel Regno Unito, negli Stati Uniti, in qualunque paese dove si era messa in moto una spirale inflattiva. Non vedo le due condizioni, non vedo, diciamo, un tale aumento dei prezzi di materie prime da scatenare, diciamo, una crescita dei prezzi consistente, e non vedo soprattutto la possibilità di aumenti dei costi del lavoro, quindi una rincorsa dei prezzi, del salario ai prezzi, e quindi neanche generarsi di aspettative di inflazionistiche. Ecco, l'inflazione è un tema fondamentale perché è chiaro che le banche centrali, se dovessero vedere che riparte l'inflazione, sarebbero tentate, anzi lo farebbero, di aumentare i tassi di interesse, perché nulla, nessuno vuole una bolla di liquidità. Però se l'inflazione resta stabile, ferma, perché non ci sono soldi da spendere e il costo del lavoro resta sotto controllo quando c'è il lavoro, è chiaro che i tassi restano bassi, lo dico anche a chi ha un mutuo. In una battuta, Luca, però molti ci chiedono perché allora la borsa continua a salire, diciamo dal minimo del 9 marzo, se le prospettive dell'economia non sono nemmeno, diciamo, nei prossimi 6-7 mesi rose. Si è sempre detto che la borsa anticipa il ciclo economico. Beh, due aspetti. La primo è che la borsa forse scontava in precedenza addirittura uno scenario peggiore, catastrofico. E quindi era preparata a una crisi molto forte e molto violenta, con una richiesta di premio al rischio che era salito su tutte, diciamo, le attività, e quindi a maggior ragione sulle azioni, deprimendone i prezzi. E in secondo luogo, perché in realtà io ho parlato, diciamo, di un divario fra capacità di produrre e produzione effettiva. Non ho detto che la produzione effettiva non aumenterà e quindi non migliorerà, anzi, mi sembra di aver detto prima che per quanto riguarda l'Italia, ma questi segnali sono assai diffusi, in Cina addirittura c'è già la ripresa, in segnali di aumento di produzione industriale ci sono in Giappone, negli Stati Uniti, nell'area euro e così via, nella seconda metà dell'anno ci sarà un aumento. Il problema è quanto veloce sarà questo aumento, fondamentalmente. Quindi prospettive di ripresa ci sono, però è una ripresa forte, è una ripresa lieve. Questo è cruciale non tanto per dire se c'è ripresa o non c'è ripresa, ma per dire se quelle imprese che si trovano nei settori più colpiti dalla crisi, con cadute di ordini fatturato anche nell'ordine del 50%, saranno in grado di recuperare parte di questi ordini e attività perdute e quindi superare questa fase terrificante di crisi. E qui entra la variabile cruciale del tempo. Ormai non è più non è più importante sapere se arriverà la ripresa, il rischio Armageddon, come lo chiama Tremonti, è stato evitato nel sistema finanziario. Il tempo è fondamentale perché, come tu ricordavi, per molte imprese un conto è sapere che torneranno a vedere deboli timidi segni più da settembre-ottobre, è un conto è dire no, devi aspettare fino a marzo-aprile. È la differenza tra licenziare o non licenziare, chiudere gli impianti e non chiudere gli impianti, non è una differenza da poco, non è da dire tiriamo la cinghia per 4-5 mesi, ormai la cinghia è tutta tirata, non esistono più buchi in questa cinghia, ecco perché il timing, come si dice in gergo, diventa fondamentale. Uno di queste, o un gruppo di queste imprese, un settore che sicuramente deve riuscire a trovare un segno più il prima possibile, è il settore del tessile, nel caso specifico il settore tessile pratese. Ecco perché ringrazio il presidente dell'Unione Industriale di Prato, Riccardo Marini, per averci raggiunto in collegamento. Buonasera presidente. Buonasera a voi. Grazie intanto a Luca Paolazzi, direttore del Centro Studi di Confindustria, e buon lavoro Luca a grazie. Te e ai tuoi grazie, collaboratori. Saluti al presidente Marini. Grazie a Carlo Genta per l'aggiornamento del Giro d'Italia, 17:39 minuti di nuovo in diretta. Allora, dal scenario macroeconomico ben delineato da Luca Paolazzi, che appunto ha anche escluso, direttore del Centro Studi Confindustria, ha escluso rischi di inflazione e quindi, aggiungo io, rischi di aumento dei tassi nei prossimi mesi, ai distretti industriali. Vi anticipo che rifaremo un viaggio che abbiamo già fatto nei mesi scorsi nei vari distretti industriali, nord-est, nord-ovest, centro Italia. Oggi ci occupiamo di Prato con appunto il presidente degli industriali pratesi, Riccardo Marini. Presidente Marini, iniziamo dai dati di oggi, poi ragioniamo sul complesso del distretto pratese. Voi avete scoperto oggi con gli indicatori indiretti che la situazione è tornata a peggiorare, ho capito bene? Sì, sono dei numeri che a fronte di un marzo dove sicuramente si poteva ipotizzare un rallentamento della caduta, aprile ha un po' sorpreso i dati che per noi sono abbastanza indicativi della produzione dell'area del distretto, sono peggiorati. Sono indicatori indiretti, cioè voi avete guardato come va il consumo di gas, di energia? Gas, energia, le ore lavorate, le ore di ferie date, la CICS, eccetera. Ecco, sono tutti quei dati che noi normalmente prendiamo in considerazione quando facciamo un focus appunto sulla situazione di salute del distretto. E rispetto a quello, ai dati che abbiamo del mese di marzo, il mese di aprile ha un pochino accentuato il peggioramento, cosa che speravamo non fosse così, anche se gli indicatori tutto sommato percepiti avevano già dato un qualcosa di notizia in tal senso. Ecco, lo dico a chi ce lo chiede al 349-238-6666, è chiaro che così come il numero di container che transitano in un porto o di camion in autostrada sono indicatori di come va l'attività economica, anche vedere che a Prato c'è stato un crollo dei consumi di energia del 17% e del 13% di quelli di gas, vuol dire che le imprese ne stanno usando meno, questo è il ragionamento. Esatto. Banalmente. E 144% in più di cassa integrazione e un 60% in più di ore di ferie. Allora, vorrei capire, a settembre, si arriva all'estate, le fabbriche poi chiudono, a settembre riaprono e che autonomia avete come distretto? L'autonomia già è difficile il percorso da arrivare alle ferie, cioè le ferie sono alla fine di luglio, abbiamo ancora 2 mesi di fronte a noi e sono 2 mesi dove normalmente il lavoro viaggia a pieno ritmo, mentre in questo momento a pieno ritmo assolutamente non viaggia, anzi penso che le scorte di ordini delle aziende si esaureranno molto prima rispetto a quello che normalmente succede durante questi periodi, per cui la prima fase diciamo delle tensioni arriveranno prima ancora delle ferie. A settembre, ecco, forse settembre, pur essendo sicuramente in tema di aspettative abbastanza negative, però prima ancora di parlare di estrema negatività aspetterei un pochino, perché nel nostro settore quello che è l'accelerazione della negatività si vede in momenti anticipati, ecco, in momenti anticipati e si percepisce nell'immediato. Poi andando avanti si cambia stagione, può darsi anche che questo cambio di stagione, come diceva Luca Paolazzi parlando di diciamo un piccolo miglioramento già a partire da settembre, possa portare anche per noi questi scenari un pochino più diciamo migliori rispetto a quello che abbiamo adesso. E noi ce lo auguriamo tutti, anche perché, e qui veniamo ai problemi più strutturali del distretto Tessile Pratese, non dovuti alla crisi, anche perché, dicevo, un distretto che è fondamentale nella produzione del tessile, 9.000 imprese, 50.000 addetti, 4 miliardi di euro di produzione per l'80% destinata all'export, ecco, questo distretto ha già visto dal 2000 al 2008 perdere un'impresa, il 37%, cioè quasi 4 imprese su 10 hanno chiuso, 1.867 imprese in meno, esatto. 10.000 posti di lavoro persi e il giro d'affari che è sceso di 1,5 miliardi. Esatto. Quello che ci lascia sorpresi è che in una città che ha 190.000 abitanti vive la terza comunità cinese d'Europa dopo Londra e Parigi. La crisi le imprese cinesi non le tocca, cioè a parte il fatto che per la prima volta le imprese cinesi hanno superato quelle, come il numero, sì, 3.144 contro 3.121, cioè sono più le imprese cinesi, cioè in mano ai cinesi, che non quelle in mano ai pratesi. Sì. Ma questo vabbè. Però nessuna richiesta di cassa integrazione da parte dei cinesi, avranno scorte, diciamo, gli scantinati, non so. La cassa integrazione probabilmente non esiste neppure. Però avranno manodopera che può scendere o salire, diciamo, le scale. Ma e l'export, i dati che vanno bene, lei come se lo spiega che comunque i cinesi aumentino anche il valore della produzione, le imprese pratesi di proprietà cinese vadano nettamente meglio? Questo, come lei ben sa, ci sono due distretti che sono paralleli e non si incrociano, almeno per adesso. E i cinesi hanno le loro regole, che viaggiano al di fuori della legalità la maggior parte di loro, cioè non pagando tasse, non pagando, lavorando molto in nero, del valore di produzione che viene creato, che è oltre 2 miliardi di euro, oltre 1 miliardo di euro è fatto a nero. Questo sono, insomma, tra l'altro è stato fatto uno studio abbastanza approfondito da una giornalista del Sole 24 Ore non più tardi di qualche mese fa, e per cui si spiega abbastanza bene, ecco, come si possono fare a non essere in crisi così tanto quanto lo siamo noi. In crisi lo sono anche loro, perché il sistema dell'abbigliamento cinese, del pronto moda cinese, in qualche modo sta soffrendo di una piccola recessione rispetto ai massimi che hanno toccato negli anni scorsi. Però questo, da qui ad arrivare in un sistema di crisi per loro, sono di strada da fare, ne hanno anche tanta, anche perché i margini che riescono a ottenere lavorando al di fuori della legalità sono notevolmente superiori rispetto a quello che un'azienda normalmente ha come tipo di utile, diciamo, rispetto al fatturato che fa. Come, insomma, abbastanza spiegabile, ecco. Se lei non so, il primo guadagno dell'IVA perché lei incassa e non la riversa, vuol dire che loro partono già con un 20% di vantaggio, insomma. Certo. Fa la svelta, ecco, a migliorare i nostri conti. Ecco, da lì vorrei arrivare all'ultima domanda dopo l'informazione per chi è in viaggio, cioè se, e non è una butade, se al distretto tessile pratese sta facendo più male la concorrenza cinese dalla Cina o la concorrenza cinese da Prato, cioè quella che avete in casa, e se sì, quali possono essere i rimedi possibili, immaginando che la crisi nell'arco di qualche mese, non dico venga superata in tutto, ma insomma, sia su livelli più tranquilli. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, adesso commenteremo anche la chiusura di borsa. Vi ho già anticipato, chiusura invariata su Milano, bene Fondiere Sai e Popolare di Milano. Vorrei concludere invece questo focus dentro focus sul distretto di Prato. Confermo a chi ce lo chiede al 349-238-6666 che proprio negli ultimi tre mesi, con una crescita prorompente del 10%, il numero di imprese, di aziende che producono abbigliamento in mano ai cinesi a Prato ha superato per la prima volta il numero di imprese, di aziende di abbigliamento di pratesi a Prato, 3.144 contro 3.121. Presidente, fa più danni, pesa di più la concorrenza cinese al tessile pratese dalla Cina o la concorrenza cinese al tessile pratese fatta in casa nella stessa Prato dai cinesi? Ma, sicuramente la concorrenza noi la subiamo dai cinesi della Cina, non tanto da quelli di Prato, che marginalmente possono sì essere concorrenziali, ma solamente per una parte minore, diciamo, dell'attività che viene svolta nel distretto di Prato. Anche perché i cinesi di Prato lavorano principalmente nel prodotto finito, nella confezione, nel pronto moda di basso livello, di basso profilo, mentre la maggior parte delle aziende pratesi lavorano sul tessile, e i cinesi di Prato sul tessile non ci sono, per cui noi subiamo la concorrenza da parte dei cinesi della Cina, perché chiaramente hanno un costo della manodopera molto molto basso e la manodopera incide tantissimo nella produzione tessile. E poi anche perché, questo non ci sforzeremo mai di chiedere all'Europa più salvaguardia, perché lavorano in dumping sociale e ambientale, dumping effettivo, visto che hanno rimborsi all'esportazione, non c'è reciprocità di accesso ai mercati, per cui loro vengono da noi duty free o quasi, e noi invece fra darsi propri e impropri abbiamo delle montagne da superare per arrivare al nostro cliente di destinazione finale. All'Europa abbiamo chiesto più di una volta, stanno chiedendo tuttora, questa benedetta adozione della tracciabilità e del made in, cioè la possibilità di obbligatorietà di marcatura del paese di origine per tutti i prodotti che vengono immessi in commercio nell'Unione Europea, cosa che esiste negli Stati Uniti, cosa che esiste in Giappone e persino in Cina, e cosa che in maniera così assurda non esiste da noi, anche perché le lobby del commercio e della grande distribuzione hanno dei numeri che sono superiori a quelli dei prodotti manufatti, dei prodotti manifatturieri, dell'industria manifatturiera. Pertanto, insomma, finché questi riconoscimenti in qualche modo non verranno portati avanti, non verranno resi obbligatori, ho l'impressione che per noi sarà sempre difficile difendersi da quella che è la concorrenza sleale della Cina, e in questo momento siamo subendo. Voi ce l'avete anche in casa, però, Presidente, la domanda che arriva per concludere dal maggior numero di ascoltatori è: ma perché? Intanto vorrei sapere, lei ha indicato la via europea, è una via molto difficile, anche perché sappiamo che molti grandi distributori e produttori del nord Europa, ma non solo, producono in Cina, quindi non vogliono mettere i dazi su beni che poi loro portano in Europa e li vendono con i loro marchi. Ma detto questo, a livello italiano cosa si può fare? Molti ascoltatori dicono: ma insomma, ma la Guardia di Finanza, le Fiamme Gialle, dove sono con tutte queste imprese che non pagano l'IVA, che non hanno la cassa integrazione perché tanto hanno probabilmente manodopera a fisarmonica? Cioè, la battuta veramente non voleva essere riverente, ma uno o sale o scende dallo scantinato, se c'è lavoro sali, lavori, se no torni giù. Cioè, un'illegalità diffusa, ecco. Voi avete mai fatto appelli alle forze dell'ordine, alla Guardia di Finanza, al governo? Guardi, che noi con le forze dell'ordine abbiamo dei contatti diretti su base quasi giornaliera, vorrei dire. I controlli in qualche modo vengono fatti, forse potrebbero essere, sicuramente potrebbero essere accentuati, potrebbero essere un numero maggiore anche dei controlli, però se a fronte di questi controlli poi non si prendono dei provvedimenti che possono portare a interrompere questo sistema perverso di diffusa illegalità, i controlli fino a se stessi non è che risolvono il problema, perché se poi non c'è, non so, una possibilità, anche una volta identificati i clandestini, che sono tanti, di rimpatri degli stessi, perché mancano gli accordi bilaterali con il paese dove dovrebbero essere rimpatriati, è chiaro, gli viene consegnato a loro un foglio di espulsione dal territorio nazionale, questi girano l'angolo, strappano il foglio e continuano a fare quello che hanno fatto prima, cioè il permissivismo dell'Italia in qualche modo gli ha insegnato che poi in fondo anche abbaia poi non morde, capito? Per cui è abbastanza difficile anche per le forze dell'ordine essere incisivi su di tanto. Cioè, non si riescono a chiudere poi queste fabbriche illegali? Si chiudono, sì, da giugno, le dirò, da giugno dell'anno scorso, con dei provvedimenti ad hoc, cioè il sindaco in questo caso comincia a firmare dei decreti di inagibilità degli ambienti dove vengono svolti dei lavori in maniera diciamo non idonea rispetto a quello che la legge prevede. Allora a questo punto sicuramente sono incisivi, cioè bisogna andare a toccare questi signori sul portafoglio, tanto per essere chiari, che è l'unica voce, l'unica lingua che conoscono, l'unica voce che gli fa un pochino di paura, ecco. In questo senso si riesce ad essere un po' più incisivi, perché togliendo l'agibilità li vengono sequestrati macchinari, chiuse gli ambienti. Però per ora si è risolto ben poco. Secondo me bisogna usare il bastone e la carota, cioè cercare di portare su un piano di opportunità quello che in questo momento è un danno, e avere questi signori, almeno quelli di seconda generazione, già sono tanti, che già operano in maniera diciamo piuttosto, non dico legale al 100%, ma abbastanza vicina alla legalità, dargli una mano, fargli un percorso in modo che possano diventare per noi un'opportunità, e anche l'associazione di Confindustria Prato è disponibilissima ad accettare soci, non tanto, non si fa una questione di etnia, una questione di somatismo, cioè solamente un percorso legale, un percorso legale, ci sono delle regole, le regole si rispettano, punto, ecco. E una volta che uno le rispetta può entrare in Confindustria, magari fra qualche anno avremo un presidente cinese, di origine cinese, chi lo sa. Percorsi di accompagnamento sono già stati da noi individuati. Presidente Marini, io le auguro in bocca al lupo a lei e a tutte le imprese legali, quindi non mi interessa diciamo la nazionalità o l'etnia di chi ce l'ha, a tutte le imprese che operano legalmente nel distretto di Prato, che ha non poche difficoltà. Confermo che la crisi ha fatto bene alle imprese cinesi, quelle che vendono soprattutto le magliette a pochi euro e, come ricordava anche Marini, probabilmente pagano l'IVA, forse hanno rapporti di lavoro un po' strani. Ha fatto bene, lo ha scritto Silvia Piraccini su Sole 24 Ore di fine aprile, del 24 aprile, e quindi rimando anche a quell'articolo. Sono cresciute le imprese cinesi proprio durante la crisi. In bocca al lupo di nuovo agli industriali di Prato, rappresentati dal presidente Riccardo Marini. Minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, dopo aver commentato i dati congiunturali sulla fiducia dei consumatori, la produzione industriale, le anticipazioni del Centro Studi Confindustria, e aver aperto un approfondimento sul distretto pratese, difficoltà della crisi vera e propria e difficoltà strutturali, ribadisco, è avvenuto, continuate a chiederlo, il superamento come aziende. Cioè le aziende di proprietà di cinesi hanno superato le aziende tessili di proprietà dei pratesi di qualche centinaio, 3.144 contro 3.121. Adesso la borsa, come sempre quando le giornate non sono particolarmente drammatiche o euforiche, la borsa ha uno spazio minore in questo programma. Invariati i due indici a Milano, un po' meglio Francoforte più 0,3, meglio Parigi più 0,8, Londra invece come Milano più 0,1, l'America meno 0,1 in questo momento, poco mosse le borse, euro di nuovo a quota 1,39, i casi che si segnalano a Milano si chiamano Fondiaria Assai più 5%, Popolare Milano più 4,6, Parmalat più 4,4, bene anche Bulgari e Buzzi Unicem, il 2,5% di rialzo, Enel più 2, Geox più 1,4 come Autogrill, l'1,2 lo guadagnano il Banco Popolare e le Pirelli, l'1% è il rialzo di ST Microelectronics. Sul fronte opposto Atlantia perde l'1,90, UbiBanca l'1,3, Mondadori meno 1,2, Mediolanum perde l'1% come Monte dei Paschi, Eni meno 0,80 come Intesa San Paolo. E allora con Radio Cori, il Sole 24 Ore, il commento. Eleonora Micheli, buonasera. Buonasera a tutti. I rialzi Fondiaria Assai da un lato, ma anche la Popolare di Milano. Sì, esatto, per quanto riguarda Fondiaria Assai, diciamo, a risvegliare l'attenzione è stato un report molto positivo di Deutsche Bank. La banca tedesca punta infatti su Fondiaria Assai perché dovrebbe essere il gruppo assicurativo che beneficerà maggiormente da un'eventuale ripresa del settore non vita in Italia. Peraltro, appunto, secondo gli analisti della banca tedesca, le Fondiaria Assai sono il titolo da preferire nel comparto assicurativo italiano, quindi da preferire appunto a Generali, Alleanza e alla stessa Unipol. Per quanto riguarda invece appunto la BPM, ha registrato un andamento in consistente rialzo, ma senza motivi particolari. Oggi le banche hanno registrato un andamento diciamo abbastanza contrastato, alcuni titoli hanno perso punti, ad esempio MPS meno 0,95%, Intesa San Paolo meno 0,77%, mentre alcune sono salite. Si tratta soprattutto di movimenti tecnici, i trader non hanno dato nemmeno troppo peso al rapporto di Moody's, che ha messo in evidenza che gli asset bancari e la qualità appunto degli asset bancari in verità è peggiorata nel 2008 e potrebbe continuare a peggiorare nel 2009 e nel 2010. Tra l'altro anticipo che avremo in collegamento fra poco proprio il responsabile di Moody's da Londra, che ha curato il rapporto, e l'outlook, le previsioni sul settore bancario italiano sono peggiorate, sono passate da neutre a negative, da stabili a negative. Eleonora, l'ipotesi Danone, ossia il fatto che la multinazionale francese possa essere interessata a comprare le attività di Parmalat o della Granarolo, dopo l'aumento di capitale da 3 miliardi annunciato ieri, nessun commento si è avuto da Parmalat, ma il titolo comunque ha guadagnato il 4,4. Sì, infatti nessun commento ufficiale da Parmalat, il mercato però ci crede, e anche appunto sono circolati diversi report di analisti in cui appunto si suppone che l'idea sia assolutamente un'idea un'idea possibile e plausibile, più 4,37%, peraltro 3 miliardi di aumento di capitale sarebbe più o meno appunto la somma necessaria al gruppo Danone proprio per acquistare Parmalat. Eh sì, vedremo se comunque il mercato ci scommette, infatti il titolo va a 1,80€. Ci chiedete giustamente di Fiat. Allora, per quello che riguarda la borsa, Fiat oggi si è mossa molto molto poco, alla fine ha chiuso in calo di 0,5 punto percentuale a 7,90€. Per quello che riguarda la vicenda Opel, riaggiorniamo. Il governo tedesco inizierà la discussione politica sul futuro della Opel tra le 20:30 e le 21, per cui in serata. Dalle 17 i potenziali investitori hanno avuto la possibilità di presentare agli esperti del governo i loro piani aggiornati con eventuali miglioramenti. Il governo ha detto già tedesco che il super vertice di questa sera non finirà senza risultati. Il ministro dell'economia Gutenberg ha detto che tutti i piani vanno comunque migliorati, e il suo collega alle finanze Steinbrück ha detto non c'è per ora nessun favorito tra le tre offerte arrivate. È ipotizzabile che domani mattina o stasera in tarda serata possa arrivare un'indicazione dalla Germania di chi continuerà a restare in gara, due nomi, e però anche di richieste migliorative. Per quello che riguarda invece la parte tecnica, tutto è pronto per separare la Opel dalla casa madre americana General Motors, come ha ricordato il presidente del consiglio di fabbrica della Opel, Klaus Franz, alla TV tedesca ZDF. Posso confermare la separazione della Opel dalla casa madre americana General Motors. Ho visto il documento che è già stato preparato, mi sembra molto buono e va nella direzione giusta. Abbiamo naturalmente analizzato con attenzione le proposte industriali di Fiat, Magna e Ripplewood. Magna ha deshalb überzeugt für uns aus folgenden Gründen. Erstens, la proposta di Magna ci ha convinto innanzitutto per l'alto valore dell'innovazione tecnologica che il gruppo rappresenta, e secondariamente per i rapporti che Magna ha con uno dei mercati che nei prossimi anni vedrà una forte crescita, ovvero la Russia. Sehr guten Zugang zu einem der großen Wachstumsmärkte der Zukunft in Russland. Così il potentissimo sindacato della Opel, ossia il presidente del consiglio di fabbrica, Klaus Franz. I migliori, i peggiori, ci chiedete. Seat pagine gialle più 29%, il migliore e chiaramente. E il tre peggiori, bah, direi poca. Amplifon meno 4,25%. E Amplifon e Casa Damiani meno 2,82%. Eleonora Micheli, in una battuta, c'è qualche motivo su Seat pagine gialle? Guarda, Seat pagine gialle più 29% sono stati i titoli risparmio. Oggi sì. La società stessa ha fatto una nota in cui sostiene che non è allo studio alcun progetto sulle azioni risparmio. Cioè di riacquisto. Sì, e di non essere a conoscenza peraltro del motivo che abbia indotto questa performance di borsa. Peraltro anche nei giorni scorsi i titoli erano stati sugli scudi. Almeno la società ha detto di non avere allo studio progetti e di non essere a conoscenza del motivo per cui le Seat risparmio siano state sugli scudi. E chissà chi le avrà comprate. Bene anche la De'Longhi con questo caldo, più 9,4%. Grazie Eleonora Micheli. Ultima Ultima parte di Focus Economia. Come anticipato, parliamo adesso del giudizio che una delle principali agenzie di rating, o quelle che danno i voti ai debiti, all'affidabilità, alle prospettive degli stati, degli singoli gruppi, mi riferisco a Moody's, ha oggi dato al sistema bancario italiano. L'Italia infatti ha visto cambiare l'outlook, ossia le prospettive, non è ancora il voto definitivo, da stabili a negative sul suo sistema bancario, su tutte le banche italiane nel complesso. Vorrei capire come mai, e allora ringrazio per averci raggiunto in collegamento da Londra il responsabile del team analisti delle banche italiane di Moody's, Henry McNevin. Buonasera. Buonasera. Dunque, ci spieghi innanzitutto il perché di questo taglio sulle prospettive da stabili a negative per l'intero settore bancario italiano. Abbiamo rivisto il nostro outlook per il sistema bancario italiano a causa del peggioramento, diciamo, delle condizioni economiche in Italia. Il sistema italiano prima è stato meno coinvolto nella crisi finanziaria perché aveva meno esposizioni verso prodotti strutturati, per esempio, ma adesso con l'economia più difficile stiamo vedendo proprio che i risultati peggiorano, la qualità del credito peggiora e pensiamo che questa situazione difficile continuerà per i prossimi 12-18 mesi almeno. Il peggioramento del voto che voi date al sistema bancario italiano è parallelo a un peggioramento di altri voti su altri sistemi bancari di altri paesi, penso alla Gran Bretagna, alla Spagna, alla Germania? Sì, infatti l'Italia è proprio l'ultimo paese, diciamo, tra i maggiori sistemi europei a avere un outlook negativo per il sistema bancario. Già da molti mesi in paesi come Spagna, Gran Bretagna, Germania c'era già un outlook negativo. Adesso, diciamo, è arrivato anche in Italia, però vediamo il sistema italiano, come diciamo, meno a rischio che quegli altri paesi che ho menzionato. Meno a rischio? Direi di sì. Beh, già questo è qualcosa. Il fatto che la borsa in questi ultimi due mesi, da inizio marzo, soprattutto in Italia ma anche nel resto d'Europa, abbia premiato molto i valori dei titoli bancari e sia comunque cresciuta, a molti ha fatto dire beh, la parte peggiore della crisi per il mondo bancario è alle nostre spalle. Mi sembra di capire che invece voi non la pensiate nello stesso modo. Diciamo che forse è una fase diversa della crisi nei diversi paesi. Abbiamo visto proprio una crisi finanziaria spinta da prodotti strutturati, per esempio. Adesso forse stiamo entrando in una fase di difficoltà bancaria più tradizionale, con un'economia che rallenta sia in Italia che in altri paesi e l'impatto abbastanza ovvio che questo può avere sulle banche. Dunque forse più è un cambiamento e adesso c'è una situazione dove anche l'Italia è coinvolta, mentre prima erano dei problemi più specifici per quegli altri paesi. Ecco, dottor McNevin, in questo momento in Italia c'è anche un dibattito quasi politico sul fatto che le banche in realtà si stiano risistemando i conti ma senza dare un aiuto alle imprese. Il ministro Tremonti ha detto attenzione, qui le banche stanno tornando ad avere un'attività molto finanziaria, fanno finanza fine a se stessa. Aumenta la raccolta delle banche ma non gli impieghi delle banche verso le industrie. È un aspetto che voi avete preso in considerazione? Beh, noi guardiamo il fatto che le banche italiane fanno, diciamo, delle attività bancarie abbastanza tradizionali, comunque raccolta da clientela, anche prestiti verso privati, verso imprese, vediamo che continuano a fare questo. Poi fino a che misura si può fare in diverse condizioni economiche bisogna vedere, spetta alle banche veramente capire un po' il bilancio fra il prestare alle imprese e capire e gestire anche i rischi di questo. Ecco, visto che ci chiedono al 349-238-6666 perché il peggioramento, se il dato sul PIL era noto, i segnali che noi abbiamo dal punto di vista dell'economia reale sono comunque di una crisi che sta rallentando quanto accaduta, non che ci sia una crescita, ma insomma i segnali ultimi che si chiamano congiunturali sono di un rallentamento di questa caduta continua. E come mai invece voi vedete una prospettiva ancora difficile per i prossimi 10-18 mesi? Beh, vediamo che, diciamo, l'economia italiana ha rallentato nel 2008, è previsto che rallenti ancora di più nel 2009 e probabilmente questo continuerà anche nel 2010. Dunque pensiamo che queste condizioni un po' difficili per le banche italiane persisteranno nel tempo. Però, come detto, non ci aspettiamo veramente, diciamo, una crisi come si è visto in altri paesi, però delle banche che hanno a che fare con una situazione più difficile. Quindi con utili in calo, se vi saranno utili. Per inciso, rispetto al sistema bancario europeo, qual è il paese su cui voi siete invece più preoccupati. Ci ha detto che declassate il voto dell'Italia sul sistema bancario, abbassate il giudizio a negativo, ma non ritenete che il sistema bancario italiano sia quello messo peggio, quello più preoccupante. Quali sono i sistemi su cui siete più preoccupati? Beh, più in generale abbiamo visto che di recente abbiamo preso delle azioni su banche in Spagna. Solo questo mese abbiamo messo sotto osservazione 36 banche in Spagna. Anche in Gran Bretagna, durante aprile, anche in Irlanda abbiamo messo sotto osservazioni o proprio abbassato il rating di un grande numero di banche. Anche in Europa dell'Est, in vari paesi, abbiamo delle preoccupazioni. L'Italia invece per adesso tutto quello che abbiamo è un outlook negativo, cioè un'impressione che le condizioni saranno più difficili per le banche italiane. Quindi un outlook ma non un cambiamento di voto, è diciamo, una prospettiva che va a peggiorare ma non diciamo, la certificazione di una situazione peggiore, ho capito bene? Esatto, stiamo dicendo semplicemente che le condizioni sono più difficili, logicamente questo può nel tempo portare forse a più azioni negative che positive nel paese, però più che altro questo è semplicemente per dire che le condizioni stanno diventando più difficili in questo paese. C'è un'altra domanda che ci arriva e riguarda in questo caso il ruolo delle agenzie di rating, Moody's, Standard & Poor's, Fitch, sono le tre principali. La domanda molto banalmente è, ma insomma, come fate in questo momento ad avere delle previsioni e diciamo degli scenari quando diciamo le agenzie di rating sono sembrate muoversi molto tardi, molto in ritardo quando è scoppiata questa crisi, cioè i voti sono stati abbassati quando ormai la crisi era in atto? E allora la domanda un po' se vuole provocatoria è, beh, se avete analizzato in ritardo allora forse anche adesso potreste non vedere la situazione diciamo per quello che è il mutamento in corso. Beh, penso che l'azione che abbiamo preso oggi di cambiare questo outlook è anzi abbastanza prospettiva, guardando in avanti piuttosto che indietro. Abbiamo analizzato molto l'economia italiana, il rating anche sullo Stato italiano, e guardando avanti pensiamo che le condizioni diventeranno più difficili. Abbiamo mantenuto l'outlook stabile molto a lungo in Italia perché giustamente ci sembrava ed è stato molto meno coinvolto nella crisi che in altri paesi. Adesso guardando in avanti pensiamo che ci sono forse dei rischi in aumento e un contesto più difficile. Dunque penso che stiamo comunque guardando avanti per capire dove possono andare in futuro i rating delle banche italiane e le situazioni in cui dovranno fare fronte. Un'ultima domanda, secondo lei, così visto che fa questo lavoro, che cosa non ha funzionato nel 2007-2008 nelle agenzie di rating? Cioè perché non avete visto quanto grossi e quanto pesanti erano i prodotti tossici dentro le banche, soprattutto chiaramente le investment e merchant bank? Quella è una domanda che purtroppo va un po' oltre il mio ruolo qui oggi, è una domanda molto difficile. Va bene, non vogliamo mettere in imbarazzo. Grazie per la disponibilità al responsabile del team analisti banche italiane dell'agenzia di rating Moody's, Henry McNevin. Grazie, buonasera. È inutile continuare a chiedere, chiaramente non era tenuto a rispondere a questa domanda. Il programma è finito. Molti di voi ci chiedono anche della commissione di massimo scoperto dopo quello che c'era scritto sui giornali. Ne riparleremo. È vero che la legge che eliminava la commissione di massimo scoperto, da alcune, secondo quello che segnalano alcune associazioni di consumatori, viene aggirata da alcune banche che stanno recependo nei nuovi contratti le regole sui fidi, ma per compensarli applicano commissioni anche pesanti su chi va in rosso senza avere un fido, Credito Bergamasco con indennità per lo sconfinamento, Cassa Risparmio di Firenze con lo scoperto di conto, Intesa San Paolo con una commissione sullo scoperto. Non compare più la voce massimo scoperto, ma la sostanza resta la stessa di Riffo di Raffa, sempre lì andiamo. Grazie a voi, auguro di buona serata a tutti gli ascoltatori di Focus Economia, ci risentiamo domani dalle 17 in poi.